Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che getta uno sguardo sul mondo e sull'attualità, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Facciamo questo nella persuasione che il dominio della specie umana e le stesse forme di gerarchia al suo interno siano da superare una volta per tutte, in modo da garantire a tutte le forme viventi un futuro degno d'essere vissuto. Da oltre 10 anni tentiamo di calare questa persuasione nel presente e nel flusso delle notizie di attualità, sperando di offrire a chi ascolta degli spunti di riflessione nuovi. È la puntata numero 659, parleremo di balene e di lupi, di cinghiali e di agricoltura, oltre che di libri e di grandi geografi del passato. La ricetta della settimana e la colonna sonora della puntata sono a cura del nostro versatile Gabriele Palloni, chef di professione e DJ nel tempo libero. La vita selvatica, a terra come in mare, è un equilibrio delicato, difficile, che impegna gli animali ogni minuto della loro vita. Dovremmo saperlo soprattutto noi, che apparteniamo alle società umane, fiere di essersi liberate, almeno in parte e in certe parti del mondo, delle angustie e delle incertezze tipiche di una vita condotta giorno per giorno, nella conquista quotidiana della sopravvivenza. Dovremmo saperlo e quindi rispettare chi quella vita conduce, interferendo il meno possibile, salvaguardando gli ecosistemi, tutto ciò che invece non facciamo, in 1000 modi possibili, distruggendo boschi, foreste, montagne, per impiantarvi infrastrutture e altre attività, o anche, più sottilmente, in modi in apparenza rispettosi, organizzando missioni turistiche a contatto con la natura e gli animali selvatici, come vengono propagandate. È un'attività, questa, pericolosa e superflua. Chi davvero ama e rispetta la vita selvatica se ne tiene alla larga, semmai la ammira, quando possibile, attraverso reportage professionali, non invasivi, rispettosi di tutto, compiuti da reporter davvero preparati. È la magia che certi documentari televisivi e certi reportage fotografici riescono a restituire. Ma il turismo purtroppo ha le sue leggi, sempre più stringenti, come si conviene a quella che, a dispetto di un'immagine di leggerezza e piacevolezza, è a tutti gli effetti un'industria pesante che produce enormi effetti sugli ecosistemi e sull'atmosfera. È così che una gita in barca per osservare degli uccelli marini può trasformarsi in una tragedia, molto probabilmente a causa di una collisione con una balena. È successo in Nuova Zelanda, dove un'imbarcazione di 8,5 metri si è capovolta a Goose Bay, vicino alla città di Kaikoura, nell'isola del Sud, e 5 persone sono morte, ripescate dai sommozzatori della polizia, che hanno messo in salvo altri 6 turisti. Il sindaco di Kaikoura, Craig Meikle, ha detto all'emittente radiofonica nazionale Radio Nuova Zelanda che la possibile causa del naufragio sarebbe legata allo scontro della piccola imbarcazione con una balena, in un'area popolata abitualmente da numerosi cetacei. La cittadina di Kaikoura, del resto, è una popolare destinazione per l'osservazione delle balene, con numerose compagnie che offrono gite in barco o in elicottero ai visitatori desiderosi di vedere da vicino balene, delfini, varie specie di fauna marina e, appunto, anche uccelli marini. L'Agenzia Nazionale delle Vie Navigabili Costiere Interne ha dichiarato di aver inviato 2 investigatori sul posto e che sarà fatta un'indagine accurata sulle cause della tragedia. Ma il punto è chiaramente un altro. Dalle balene e dagli altri selvatici bisognerebbe stare alla larga, per rispetto verso di loro e per comprensione dei limiti che la presenza umana deve avere in certi ecosistemi. She popping, she dipping, she spinning, she dropping, she flipping, she winning. She popping, she dipping, she spinning, she dropping, she flipping, she winning. Fiera degli animali senza animali, sostituiti con sagome di cartone. È successo a Erbezzo, in provincia di Verona, dove l'annuale manifestazione zootecnica è diventata per gli allevatori un'occasione per protestare contro la presenza del lupo nell'area della Lessinia. Una fiera senza bestiame, ha spiegato il sindaco di Erbezzo, Lucio Campedelli, è un fatto straordinario, ma è frutto di una situazione di gravità manifesta per la presenza incontrollata e ingestibile dei predatori. Altri sindaci della zona hanno sostenuto a loro volta questa iniziativa che nasce dalle predazioni di manzi e vitelli avvenute nel corso degli anni scorsi. Secondo quanto riferito dal quotidiano L'Arena, gli allevatori della Fiera del Bestiame non hanno fatto proposte concrete né individuato possibili soluzioni. E viene da chiedersi allora quale sia l'obiettivo reale, visto che eliminare i lupi, almeno legalmente, non si può, visto che si tratta di una specie protetta. Ad ogni buon conto, riferisce ancora L'Arena, un portavoce degli allevatori ha fatto notare che il lupo non ha solo un impatto economico, ma soprattutto emotivo. Gli allevatori sono demoralizzati. Demoralizzati, aggiungiamo noi, ma decisi, a quanto pare, a scaricare sui lupi responsabilità e limiti che forse dovrebbero cercare in loro stessi. She is my drama queen. She is wild and reckless. She is my drama queen. She dangles from her necklace. Daddy's little bundle of joy out of a magazine. Everyone's drama. Forse siamo stati troppo ottimisti la settimana scorsa quando abbiamo valutato come un precedente destinato a fare scuola il caso dei cinghiali finiti in un parco cittadino alla Spezia e poi salvati grazie alla mobilitazione di tanti cittadini, delle associazioni animaliste e all'impegno delle istituzioni locali. Passati pochi giorni, sempre in Liguria, stavolta a Genova, una vicenda analoga è finita in tutt'altro modo, con la eliminazione fisica di 6 cinghiali, prima chiusi e poi prelevati tramite sedazione dal parco dell'Acquasola, una delle poche aree verdi rimaste nel capoluogo ligure, e quindi portati in un bosco ed uccisi. I 6 animali erano entrati nel parco dopo essere stati avvistati nei giorni precedenti in alcune vie e piazze della città, perfino in Piazza De Ferrari, cuore simbolico e politico di Genova. Il personale della Vigilanza Faunistica Regionale è intervenuto chiudendo il parco e bloccando l'accesso alle persone, procedendo subito alla sedazione degli animali e al loro trasferimento in un'area boschiva, dove però non sono stati liberati, bensì abbattuti. Il caso della Spezia evidentemente è stato subito dimenticato da parte delle autorità. L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, AIDA, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Genova su questo caso e chiede di indagare se vi siano responsabilità penali in quanto avvenuto. Vedremo se la Procura di Genova deciderà di intervenire e come. Intanto possiamo dire che la cosiddetta emergenza cinghiali è ancora ben lungi dall'essere affrontata con raziocinio, intelligenza e rispetto. Si preferisce fingere di credere che la soluzione, intendendo per soluzione il fatto che i cinghiali non si presentino mai più nelle aree cittadine, deve essere cruenta, a dispetto dei fatti, dell'etologia, in sostanza a dispetto della realtà. Dopo qualche settimana di assenza, la rubrica Lessico dell'Antropocene, con la quale Francesco Panier, giornalista esperto di questioni ambientali e attivista dalla parte degli animali, ci guida attraverso i concetti e le problematiche di economia fondamentali più pressanti del nostro tempo. Sentiamo. L'Italia e l'Argentina hanno legami storici, a partire da quello della migrazione massiva che portò milioni dei nostri connazionali a solcare l'oceano in cerca di fortuna in America Latina tra fine 800 e inizio 900. Questi legami, nell'ultimo mezzo secolo, hanno assunto però una natura prettamente commerciale. Più che donne e uomini, oggi si spostano merci, prodotti di ogni genere attraversano l'Atlantico, diretti verso i porti dell'Unione Europea. In particolare la soia, destinata all'alimentazione degli animali rinchiusi negli allevamenti intensivi del nostro paese. Oltre a costituire un cardine dello sfruttamento e del massacro degli animali cosiddetti da reddito in Italia, la soia transgenica argentina ha un secondo effetto negativo: contribuisce alla distruzione dell'ecosistema più ricco di biodiversità del paese, la foresta del Gran Chaco americano. Per avere un'idea dell'impatto, occorre sapere che il Chaco americano è il secondo sistema forestale più grande del Sud America, dopo l'Amazzonia. Ha già perso per la deforestazione 14 milioni di ettari, più di tutta la superficie agricola italiana, per intenderci. La soia viene infatti impiantata in aree ecologiche completamente deforestate, spesso illegalmente o aggirando le deboli norme in vigore nel paese. Questa denuncia viene da un report pubblicato il 12 settembre scorso dal collettivo Periodistas por el Planeta e dalle associazioni Madre Brava, Somos Monte e Fair Watch, con il titolo Soia, la via dell'ecocidio. Questo lavoro ricostruisce il percorso del seme oleoso più famoso del mondo, tracciando nella rotta dagli appezzamenti deforestati del Chaco fino ai porti italiani. Il rapporto punta il dito sull'impunità dei grandi gruppi industriali dell'agribusiness e dei grandi produttori di carne e mangimi, che importano e utilizzano mangime per un'industria violenta e anche ecologicamente insostenibile. L'Italia è in ottima compagnia nell'alimentare queste tristi filiere. L'Unione Europea è infatti il terzo importatore mondiale di prodotti agricoli che causano la deforestazione tropicale e il cambiamento climatico, preceduta soltanto dai giganti asiatici Cina e India. Bruxelles ha appena approvato un regolamento che dovrebbe garantire catene di approvvigionamento libere dalla deforestazione, anche se gli ecologisti sono scettici sulla sua efficacia. Tutto infatti si dovrebbe basare sulle immagini satellitari gestite da pochi gruppi privati, ma senza una contemporanea verifica sul campo molti casi di deforestazione non vengono rilevati a dovere. Si cercano insomma dei palliativi per evitare misure davvero incisive che possano prendere di mira i due aspetti del problema, cioè la distruzione ecologica e la violenza dello sfruttamento animale. La realtà è che la regolamentazione è pensata per disturbare il meno possibile gli affari che coinvolgono player economici di primo piano. Il 90% del commercio mondiale di prodotti agricoli di base come soia, grano e mais è infatti in mano ad appena 4 imprese. Le chiamano A, B, C, D ed è l'acronimo di Archer Daniel Midlands, Bunge, Cargill e Dreyfus. Sono potenti quanto discrete, ma gestiscono flussi di denaro e di merce colossali, al punto da tenere in pugno gli approvvigionamenti di interi paesi. Il report Soia, la via dell'ecocidio, aiuta ad avere un po' più di consapevolezza e ad avvicinare la nostra percezione al destino delle grandi foreste sudamericane, prese d'assedio da parte di imprese collegate con gli allevatori italiani e i supermercati. Alla nostra coscienza ecologica dobbiamo adunire però anche una coscienza etica che sta crescendo nelle nostre società e che si manifesta nel rifiuto dello sfruttamento della vita senziente. Tenere insieme questi due aspetti è la sfida per costruire la liberazione animale in un pianeta più giusto e ospitale. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again incidentally in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Torniamo a parlare di libri. Gli animali non umani, ma anche gli ecosistemi, nel loro insieme, nella società presente sono qualcosa di ineffabile, una presenza sfuggente, quasi indefinita, nonostante la fisicità, la materialità del loro essere. Di volta in volta vengono considerati un ornamento, una parte del paesaggio, qualcosa da definire genericamente come natura, e ognuno vi si rapporta a modo suo. Per chi, come noi, propone un programma di informazione che mette al centro dell'attenzione proprio gli animali non umani, le loro vite, le storie, il senso della loro presenza nella nostra società, gli altri animali sono anche fonte di insegnamento, oltre che di meraviglia. Gli ecosistemi, dal nostro punto di vista, sono ciò che rende possibile la vita, quindi ambienti rispetto ai quali dovremmo porci nell'ottica dell'ospite o del partecipante rispettoso. Ci piace perciò segnalare il libro scritto da Helen MacDonald, che non è un animalista, ma una persona che ha imparato a guardare al mondo animale con attenzione e curiosità. È una scrittrice, una poeta, ricercatrice di storia e filosofia all'Università di Cambridge, ma anche una naturalista, grazie a un'assidua e precoce frequentazione con la natura e gli animali. Il suo libro, Voli Vespertini, pubblicato da Einaudi, raccoglie saggi, ma forse dovremmo definirli saggi narrativi, perché raccontano storie, impressioni, valutazioni, che sono frutto di esperienze concrete di contatto diretto con gli animali, con le piante, con gli ecosistemi. È un'opera quindi di narrativa, alla scoperta delle tante lezioni che il vivente può offrire agli appartenenti alla specie umana, che decidano di dismettere la postura da dominatori della scena e accettino di calarsi nell'animalità con spirito di osservazione e di stupore. Così, seguendo Helen MacDonald, può accadere di salire con lei in cima all'Empire State Building, nel cuore di Manhattan, ma non per godersi lo spettacolo in basso, la brulicante metropoli, simbolo di un'intera civiltà, bensì per volgere lo sguardo verso l'alto e ammirare, nel buio della notte, un buio non buio, visto l'enorme inquinamento luminoso della città, la vita che scorre, gli uccelli che passano. Scrive Helen MacDonald. Punto subito il binocolo. Tre paia di ali chiare battono verso nord-est in formazione stretta. Nitticore. Le avevo sempre solo viste ingobbite sui rami o acquattate vicino a stagni e laghi. Ed è stupefacente metterle a fuoco adesso, così lontane da quei contesti familiari. È lo stupore del birdwatcher metropolitano. È la scoperta che anche le città, addirittura la città forse più città del mondo, è popolata o almeno attraversata da animali selvatici. Racconto dopo racconto, l'autrice è una guida appassionata. Ci porta fra lepri e cicogne, insetti e cuculi, cervi e falene. Ripercorre incontri ed esperienze dirette di una vita. Nel capitolo che dà il titolo al libro, MacDonald parla dei rondoni, uccelli piccoli e poderosi, incapaci di toccare terra ma in grado di volare senza sosta per anni, facendo tutto in aria, mangiare, accoppiarsi, dormire, salvo sostare al tempo della riproduzione in fragili nidi costruiti nelle fessure dei tetti. Sono uccelli straordinari anche per la loro vita cooperativa e per il continuo passaggio da enormi altezze al volo a pelo d'acqua e viceversa, con ascese repentine a dir poco mozzafiato. Un tempo, scrive MacDonald, venivano chiamati Devil Birds, uccelli del diavolo, forse perché quegli strillanti stormi di croci nere intorno alle chiese sembravano sbucare dall'oscurità anziché dalla luce. Ma per me sono creature del cielo profondo e della natura inintelligibile, cosa che li rende più simili agli angeli. Helen MacDonald voli vespertini e altri saggi su ciò che la natura ci insegna e in Audi, 302 pagine, 20 euro. God save the Queen, a fascist regime, it made you a moron, a potential age bomb. God save the Queen, she ain't a human being, there is no future in England's dreaming. Told what you want, don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni a proporci una ricetta che sia ispirata alle notizie della puntata. Sentiamo che cosa si è inventato. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Qualcuno ha detto balena? Io allora rispondo Pinocchio. Sì, perché c'è chi dice che era un pesce cane, chi un mostro marino, ma per me quella del famoso burattino era una balena. E allora, per rafforzare la mia teoria, la ricetta che vi racconto oggi è dedicata all'intramontabile fiaba di Collodi. Gli ingredienti per 4 persone per le pere di Pinocchio sono 250 ml di estratto o succo di pera, 50 g di zucchero di canna, 30 g di amido di mais, un pizzico di cannella in polvere, 100 g di cioccolato fondente, 80 ml di acqua, ancora 20 g di zucchero di canna, un pizzico di sale e delle mandorle a scaglie. Stemperate l'amido di mais con il succo di pera, aggiungete la cannella, 50 g di zucchero di canna, un pizzico di sale e fate cuocere a fuoco lento mescolando con una frusta. Quando il composto inizierà ad addensare e sobbollire, mescolate con energia e togliete dal fuoco. Senza far passare troppo tempo, versate la crema ottenuta in 4 stampini monoporzione da budino e lasciate raffreddare. Poi fate riposare almeno un'ora in frigorifero. Nel frattempo unite l'acqua ai 20 g di zucchero di canna e portate all'ebollizione. Aggiungete il cioccolato fondente che avrete tritato, fate cuocere per un minuto, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Trascorso il tempo necessario, sformate la crema di pere e glassatela con la salsa al cioccolato. Decorate con le mandorle a scaglie e servite. Mm-hmm. soldier. Well, it's alright. Love is what you want. Chiudiamo con una citazione da Cronache Ribelli, l'almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria, 250 storie di lotta, coraggio e amore. Un libro pubblicato da CR Edizioni, un repertorio di personaggi, eventi, memorie di ribellione, che ha la singolare caratteristica, per noi preziosa, di includere anche animali non umani e lotte animaliste e antispeciste. Abbiamo ripreso, nelle puntate scorse da questo almanacco, le storie dell'elefanta Topsy e quella di Diane Fossey e dei suoi gorilla di montagna. Ora è la volta di Jacques-Élisée Reclus, grande geografo dell'Ottocento e pensatore antispecista ante litteram. Ecco che cosa ne dice l'almanacco Cronache Ribelli alla data del 15 marzo. Jacques-Élisée Reclus fu un importante geografo francese. Nato il 15 marzo 1830, fu educato all'interno di istituzioni religiose, da cui si allontanò presto, pur conservando una certa morale cristiana che lo portò a solidarizzare sempre con i deboli e le vittime dell'ingiustizia del suo tempo. Oppositore di Napoleone III, fu costretto ad abbandonare la Francia e a girovagare per diversi anni in giro per il mondo, arrivando negli Stati Uniti. Nel corso dei suoi viaggi, oltre a realizzare appunti e annotazioni sulla conformazione di diversi luoghi, che saranno la base dei suoi primi scritti, si convinse ancora di più della bontà delle sue idee e, tornato in Europa, aderì definitivamente all'anarchismo. Insieme ai suoi due fratelli combatté nella Comune di Parigi. Arrestato e imprigionato, fu deportato in Nuova Caledonia e alla fine esiliato grazie alla fama che aveva ormai guadagnato in campo scientifico. Rifiuterà l'amnistia che il governo gli aveva concesso, sostenendo che l'avrebbe accettata solo se fosse stata estesa a tutti i reclusi per i fatti della Comune. Durante l'esilio conoscerà molte figure dell'anarchismo internazionale, fra cui Kropotkin, anch'egli geografo libertario, di cui diventerà grande amico. Scriverà in questo periodo la sua monumentale opera in 19 volumi, La nuova geografia universale, che terminerà nel 1894 dopo aver intrapreso numerosi viaggi, assai difficoltosi per l'epoca. Prima della sua morte fonderà una libera università, svincolata dal controllo dello Stato, e inizierà l'ultimo dei suoi scritti, L'uomo e la terra, impareggiabile saggio di geografia sociale. Vegetariano convinto, fu in epoca recente fra i primi uomini di scienza a manifestare posizioni di vicinanza e solidarietà alle altre specie animali. Ecco una frase di Jacques-Élisée Reclus. Se noi dovessimo realizzare la felicità di tutti coloro che portano una figura umana e destinare alla morte tutti coloro che hanno un muso e che non differiscono da noi, che per un angolo facciale meno aperto, noi non avremmo certo realizzato il nostro ideale. Da parte mia, nel mio affetto di solidarietà socialista, io abbraccio anche tutti gli animali. My majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Con Jacques-Élisée Reclus chiudiamo in bellezza questa puntata. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Baronti, Valentina Reggioli, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesco Pagnè e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.